Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Se gran parte dei ragazzi decide di andare via è perché qui si rende conto di non avere la possibilità di coltivare, di investire su se stessi, quindi preferisce andare via. E poi per forza di cose sei costretto a rimanere lì dove hai cominciato a costruire. Ma per forza di cose non credo che sia la volontà di non ritornare, è una necessità per sopravvivere. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Salviamo il salvabile. Prendiamo a prestito il titolo di questo bel documentario sui giovani, girato alcuni anni fa in Sicilia e del quale avete appena ascoltato un breve estratto per introdurre questa nuova puntata. Riusciremo a salvare il salvabile in questa Italia in declino che sta facendo scappare i suoi giovani migliori? Oggi un'altra storia straordinaria che ci insegna come, in un ambiente segnato da un mercato del lavoro dinamico e competitivo, qual è quello britannico, la carriera professionale può riservare molto sorprese positive. Scopriremo come la precarietà lavorativa non sia necessariamente sinonimo di incertezza, basta avere talento e voglia di mettersi in gioco. Allo stesso tempo, accerteremo come in un paese vecchio, chiuso all'innovazione e immobile come il nostro, chi prova a tornare dopo anni di formazione all'estero trova le porte sprangate. Pazzesco, no? Ma partiamo dall'inizio. Qui ci sono opportunità perché il tuo posto di lavoro te lo guadagni e non è garantito da nessuno, quindi per chi è bravo ci sono sempre opportunità. Daniele Giommi, 30 anni, è un financial control manager al lavoro a Edimburgo in Scozia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura l'allarme lanciato alcuni giorni fa dal governatore di Banca Italia Mario Draghi, la bassa crescita dell'Italia negli ultimi anni è anche riflessa dalle sempre più scarse opportunità offerte alle giovani generazioni. Per Draghi le difficoltà incontrate dai giovani devono preoccuparci, le loro prospettive di reddito sono più che mai incerte, si stanno sprecando risorse preziose e stiamo mettendo a repentaglio non solo il loro futuro ma quello del paese intero. Sempre secondo Banca Italia, solo il 35% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni lavorava nel 2010, ha un impiego temporaneo quasi un ragazzo su due, mentre il 19,1% non studia né lavora. A seguito della crisi, tra il 2008 e il 2010, l'occupazione tra i 15 e i 29 anni è diminuita del 13,2%, molto di più che in Francia, meno 2,7%, e in Germania, meno 3,1%. E ora un dato che fa molto riflettere, riguarda il saldo negativo per l'Italia in termini di importazione dei talenti. Secondo l'OCSE, citato dal Corriere della Sera, nel bel paese solo il 13% degli immigrati ha una laurea o un master, contro il 30% di Germania e Austria, il 36% di Francia e Svizzera, il 40% degli Stati Uniti e il 42% della Gran Bretagna. Sempre per l'OCSE, un laureato italiano con 20 o 30 anni di esperienza viene pagato il 120% in più rispetto a un laureato al primo impiego. La media dei paesi industrializzati prevede una paga superiore solamente del 50%. Vale la pena ricordare che solo un giovane su 5, tra i 25 e i 34 anni, possiede una laurea in Italia, al di sotto della media OCSE che supera il 37%. Ancora sul fronte retribuzioni OCSE, il salario medio in Italia nel 2010 è stato di $36,773 contro una media dell'Eurozona a $44,904. Il salario medio italiano è superiore a quelli di Spagna, Grecia e Portogallo, ma inferiore a Francia, Germania e Gran Bretagna. E secondo una ricerca IRES CGL, i salari italiani hanno perso valore per €7,173 negli ultimi 10 anni, soffrono soprattutto i giovani, la retribuzione mensile netta per i 50-60enni è più alta del 27% rispetto ai 30-40enni. È in programma il 24 ottobre a Torino la seconda edizione dei Confindustria Awards for Excellence, il premio per le aziende italiane più innovative. E i giovani imprenditori di Confindustria chiedono ai 18-30enni del bel paese di farsi avanti con le proprie idee inviandole all'associazione. Le proposte più significative arricchiranno quelle che i giovani imprenditori presenteranno a Capri il 21 e 22 ottobre. La campagna è stata chiamata Alziamo il volume, diamo voce al futuro. Info su giovaniimprenditori.org. Oltre 3.000 giovani talenti e più di 100 aziende sono stati coinvolti nella terza edizione di Campus Mentis, il laboratorio di idee dedicato ai migliori neolaureati d'Italia, che ha preso il via lunedì a Milano per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Info su campusmentis.it. 8 giorni fa hanno ingannato tutti, facendo credere per alcune ore che il PDL si fosse già trasformato in Forza Gnocca dopo l'ultima boutade del premier Berlusconi, ma la loro era solo una provocazione. 3 giovani imprenditori innovativi, tutti trentenni, nonché fondatori della startup web Winsware, che sta prendendo forma negli Stati Uniti, spiegano così a Giovani Talenti e per bocca di Stefano Mendicino il perché dell'iniziativa, che ha un forte sapore di denuncia. Il messaggio era semplicissimo, volevamo solo attirare l'attenzione dei media sulla situazione dei giovani imprenditori italiani, cosiddetti startup. start-up, cioè gli imprenditori dei nuovi media, e volevamo trovare un modo semplice che però ci portasse ad avere quella visibilità che ci serviva per sensibilizzare l'opinione pubblica. Giovani imprenditori start-uppers che in un paese vecchio e conservatore devono emigrare per fare impresa, giusto? Devono emigrare quasi per forza, nel senso che in Italia le cose sono un po' complicate sia per i nuovi media, ma anche per quanto riguarda il trovare degli investitori. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un program officer ad International Idea, sede di Canberra in Australia, richiesta la laurea in scienze politiche, scadenza per i CV domani, info su idea.int. Un funzionario legale per EUMETSAT a Darmstadt, Germania, scadenza per i CV 25 ottobre, info su EUMETSAT.int. E infine l'Istituto Nazionale di Chimica e Fisica e Biofisica di Tallinn in Estonia cerca ricercatori a inizio carriera, scadenza per i CV 21 ottobre, info su kbfi.ee. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nelle splendide lande della Scozia. Nome: Daniele. Cognome: Johnny. Età: 30 anni. Città di origine: Fano. Studi: laurea specialistica in banche, assicurazioni e mercati finanziari. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? New York. Perché? Perché i neolaureati non li assume nessuno in Italia. Quale lavoro svolge attualmente? Financial Reporting Manager. Dove? Edimburgo, per la Royal Bank of Scotland. Tornerai? Mi piacerebbe tornare, ma sono ancora troppo giovane. Non c'è colonna sonora migliore di Braveheart per introdurre la vicenda di Daniele Giommi. Sarei lieto di poter contribuire con la mia storia. Laureato col 3 più 2 a 24 anni, 6 anni che vivo all'estero. Ormai sono un qualified accountant. In Italia non saprei che fare. Daniele, questo è stato il tuo primo biglietto da visita in un'email che hai scritto un anno fa a giovanitalenti@radio24.it. Domanda a bruciapelo: com'è possibile che questo paese sia così suicida da non avere nulla da offrire a un giovane professionista con esperienza internazionale come sei tu? Secondo me ci sono due motivi. Uno è perché sono troppo giovane e nessuno mi offrirebbe una posizione manageriale in Italia. E l'altro è perché, provenendo da un piccolo comune marchigiano, non ho le conoscenze per farmi assumere da un'impresa medio-grande. Sempre le conoscenze, questa parola maledetta che torna in continuazione. Partiamo dai tuoi studi, facciamo una dovuta premessa. Appartieni a quella sparuta minoranza, 9,1% di giovani italiani con origini umili che arriva alla laurea. La media europea è, pensa, addirittura del 23%. I tuoi nonni erano contadini, i tuoi genitori operai. Tanti, tanti sacrifici per portarti fino al titolo di dottore. Quali speranze tu e la tua famiglia riponevate nella scuola e nello studio? Qual era il tuo sogno? Io e la mia famiglia riponevamo tantissime speranze nello studio, altrimenti non avrei mai fatto l'università. E come sogno io avevo semplicemente quello di avere un buon lavoro. Sogno semplice, difficilmente realizzabile in questo paese. Ti iscrivi all'Università Politecnica delle Marche, laurea in economia con una particolarità. In quegli anni passa la riforma del 3 più 2. Scegli il nuovo ordinamento e nel luglio 2002 ti laurei tra i primi triennali in Italia. Perché hai scelto questo ordinamento in brevissimo? Perché credevo nella riforma e pensavo che fosse migliore e che mi avrebbe lanciato nel mondo del lavoro. A quel punto non ti fermi, prosegui con la laurea specialistica, banche, assicurazioni e mercati finanziari. Lo scopo è preciso, mirato all'assunzione? Cioè? Perché volevo differenziarmi dalla media degli studenti, così avrei potuto trovare il posto di lavoro che sognavo. Nel luglio 2004 ti laurei in specialistica col secondo 110 lode, sei tra i primi 14 laureati di questo tipo in Italia. Fermiamoci un attimo, qual è il giudizio finale sulla preparazione universitaria vissuta a cavallo di un cambio epocale? Buono, perché a livello accademico credo che non abbia nulla da invidiare all'università estera, però la differenza enorme è che non c'è un collegamento con il mondo del lavoro. Tu sei stato uno dei primi laureati di 3 più 2, 210 lode alle spalle, studente modello, tanti sacrifici fatti, pensi ormai è fatta, assunzione assicurata. Allora vogliamo dire quanti curricula hai inviato e quanti colloqui hai sostenuto e dove li hai sostenuti? Ho inviato circa un centinaio di curriculum, ho fatto circa una ventina di colloqui e città in cui ho fatto colloqui includono Milano, Roma, Bologna, Firenze, Genova, Iesi e ovviamente le cittadine marchigiane. Qual è stata l'unica offerta di lavoro che ti è giunta e a quali condizioni? L'unica offerta di lavoro fu uno stage di 6 mesi con la Banca delle Marche nella loro sede di Iesi, che si trova a 50 km da dove abitavo. Le condizioni erano nessun rimborso spese. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Le mie aspettative e quelle dei miei genitori si frantumarono improvvisamente. Tutti i sacrifici che avevamo fatto erano stati inutili, rifletti con amarezza, ricordando quei mesi di frustrazione. A quel punto decidi che è passato troppo tempo. Pazienza finita, goodbye malinconia, come canta Caparezza. Quale opportunità ti si presenta negli Stati Uniti e come la ottieni? Mi si presenta l'opportunità di fare uno stage a New York per la Sector Group USA. Questa opportunità la ottengo tramite una domanda che feci con l'Università Politecnica delle Marche. A New York rimani solo un anno, a condizioni contrattuali di stage impensabili. In Italia ti hanno rimborsato vitto, alloggio, viaggio, eccetera. Però poi decidi di tornare in Europa, ma non in Italia. Nel 2006 inizi la tua nuova vita, vita che riparte dalla Scozia. Come ci approdi? Ci approdo perché volevo una vita più equilibrata tra lavoro e famiglia. E gli inizi non sono semplici. Ti tocca la gavetta come accounts payable, processando ogni giorno fatture di acquisto. Qui entra in gioco una differenza fondamentale tra Italia e Gran Bretagna: l'elasticità del mercato del lavoro associata alla possibilità concreta di fare carriera pur giovanissima. Allora facci capire in breve qual è la formula vincente del mercato dell'impiego oltre Manica. La formula vincente è di certo un mercato del lavoro molto flessibile, dove chi dimostra di essere bravo ha praticamente l'opportunità di crescere e di far carriera. La tua prima esperienza lavorativa si conclude col fallimento della compagnia di costruzioni per cui lavoravi, ma non ti rassegni. In Scozia si gira pagina e si trova un altro lavoro. As simple as that. Aggiungi persino un altro tassello alla tua qualifica, quale? Aggiungo l'H, l'equivalente tra il dottore commercialista e il revisore dei conti. Tra l'altro qualifica interamente pagata dalle aziende per cui hai lavorato, giusto? Certo. Nell'ottobre 2008 il tuo primo incarico di responsabilità, Assistant Manager Accountant, responsabile della gestione di tutto il sud-est asiatico. Come vieni selezionato? Per merito o raccomandazione? Al 100% per merito. Nel 2010 la multinazionale Life Technologies ti assume come Senior Associate Accountant, missione tornare in Italia a Monza, chiudere le attività contabili in loco e trasferire le conoscenze e il know-how nella sede scozzese. Daniele, perché anche le multinazionali, oltre ai nostri giovani, fuggono dall'Italia? Che cosa le disincentiva a investire? Per me è semplice ed è la rigidità del mercato del lavoro italiano, perché se le imprese non possono licenziare in tempi di crisi, questo significa che non assumono in tempi di crescita economica. E dopo un solo anno ti licenzi e approdi alla Royal Bank of Scotland, o meglio alla sua controllata, la Coutts & Co., che ha una particolarità ben precisa. Quale? È semplicemente la banca dove ha il conto corrente la regina e tutti i reali. E per poter avere un conto corrente occorre guadagnare 500.000 sterline l'anno, una banca molto esclusiva. A soli 30 anni sei italiano. Italiano, gestisci un team di due persone in qualità di Financial Control Manager, i tuoi sottoposti sono scozzesi e più anziani di te. Un bel esempio di meritocrazia. In Italia una carriera così veloce l'avresti mai potuta fare? Sognare forse, ma la realtà è che sarebbe stato un sogno che non si sarebbe mai realizzato. A 30 anni con una bambina di due mi sento al massimo delle mie capacità, consapevole che posso fare ancora tanta strada. In Italia avrei potuto fare affidamento solo ed esclusivamente alle conoscenze dei miei genitori. Denunci a giovanitalenti@radio24.it. È questa la differenza tra un paese medievale come il nostro e uno moderno, come ad esempio appunto la Gran Bretagna. Nonostante la crisi, qui ci sono opportunità perché il tuo posto di lavoro te lo guadagni e non è garantito da nessuno. Quindi per chi è bravo ci sono sempre opportunità. Perché definisci una scelta obbligata quella di rimanere all'estero per la tua bambina? Perché purtroppo non voglio dare a mia figlia quello che ho avuto io, e cioè studiare fino a 24 anni e poi ritrovarsi disoccupata oppure dover lavorare a gratis. Domanda di rito, Daniele, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Dall'estero vedo un'Italia in crisi ed in bancarotta, un paese che in pratica è sull'orlo del fallimento. Io cambierei due cose: il primo è il mercato del lavoro e il secondo abolirei gli stage completamente gratuiti. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Daniele Giommi, trentenne Financial Control Manager al lavoro in Scozia per Coutts & Co., l'istituto di credito di sua maestà, una delle banche più esclusive del Regno Unito. Daniele vi giunge dopo una laurea in economia, cui è fatto seguito un vero e proprio calvario per l'Italia alla ricerca di un posto di lavoro che, nonostante gli ottimi voti, non arrivava mai. Di qui la decisione di accettare un'offerta negli Stati Uniti, cui ha fatto seguito il trasferimento in Scozia. Daniele scala rapidamente le posizioni in gerarchia, superando fallimenti aziendali, mantenendo una mobilità di impiego altissima al punto che non resta mai più di un biennio nella stessa azienda, grazie a un mercato del lavoro dinamico. Daniele sa che di strada ne può fare ancora tanta, ma all'estero. Ci raggiunge ora in linea Roberto Antofermo, 38 anni, Senior Accounting Specialist presso la sede scozzese di Life Technologies. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Per cominciare, qual è il trade union che lega la tua storia a quella di Daniele, Roberto? Entrambi abbiamo cercato altrove delle opportunità che non abbiamo trovato in Italia, Abbiamo poi realizzato che nel Regno Unito le aspettative che riponevamo durante il periodo accademico sono state un po' realizzate. Anche gli studi sono simili tra te, Daniele: laurea in economia e commercio a Cagliari, di cui hai fatto seguire un periodo di formazione in Gran Bretagna, e uno di corso post laurea con stage in Sardegna. Ma cambiando l'ordine dei fattori, il risultato di questi sforzi assomiglia drammaticamente purtroppo a quello di Daniele. Quanti curricula hai inviato in Italia e con quali risultati? Diciamo una centinaio più o meno di CV in giro, un po' in tutta Italia. Ho avuto qualche risposta e un solo colloquio. E tu hai pensato, vabbè, forse sarò troppo giovane, allora nel 2002 lasci l'Italia, prima l'Irlanda, poi la Scozia, cambiando lavoro e anche acquisendo responsabilità di volta in volta maggiori, a Prodi, poi a Life Technologies, e qui la tua storia però si divide da quella di Daniele. 13 mesi fa hai mollato tutto e hai provato a tornare in Sardegna. Sapevo cosa mi aspettava, ma credevo di poter trovare delle gratificazioni anche per lavorare in una piccola o media impresa e aiutarla a crescere. Hai scommesso sulla Sardegna, hai scommesso sull'Italia, e con quali risultati? Nel rientrare sapevo già cosa mi aspettava, c'è un contesto imprenditoriale, diciamo medio piccolo, anche un mercato del lavoro piuttosto saturo, se vogliamo, e con scarse opportunità professionali e salariali. Però ho pensato che era una sfida positiva, che potevo comunque contribuire a far crescere un'azienda anche di medio piccola dimensione nella mia regione, e comunque anche avere delle gratificazioni personali. Però sostanzialmente in 5 mesi che ero lì ho inviato forse una ventina di curriculum e ho avuto nessuna risposta. Ma com'è possibile che capitale umano altamente qualificato e dall'esperienza internazionale quale siete voi venga semplicemente snobbato dall'Italia? Non è un atteggiamento suicida? Sì, ritengo che il nostro paese sia un po' indietro fondamentalmente nell'ottica della modernizzazione, se vogliamo, fatichi un po' più degli altri paesi europei a cui dovrebbe invece ispirarsi, se vogliamo. Ti aggiungo anche che in Italia solo il 13% dei manager sono stranieri contro il 42% della Gran Bretagna. Siamo allergici, lavorativamente parlando, non solo ai nostri stessi espatriati, ma anche a chi arriva da fuori. A chi date fastidio, insomma? Io non credo che diamo fastidio a nessuno. Essenzialmente credo che, se prendiamo l'esempio del Regno Unito, loro sono stati capaci forse di coniugare meglio il progresso, se vogliamo, con la disponibilità di risorse internazionali di lavoro. Un sistema dove hanno premiato, se vogliamo, anche la capacità e il merito, piuttosto che la conoscenza o la spintarella, se vogliamo. Sono la peste di questo paese, diciamo, sono veramente la peste dell'Italia. Ultima cosa, dopo 5 mesi tu torni in Scozia e riprendi a lavorare addirittura con un grado gerarchico più alto rispetto a quello che avevi lasciato. Quando si dice la meritocrazia? Quando guardi al futuro, pensi di poter dare un'altra chance alla Sardegna o all'Italia? Sì. Senza dubbio non ho mai accantonato l'idea di tornare in Italia, magari riproverò in futuro, anche perché penso di poter ancora contribuire, se vogliamo, a crescere dal mio paese. Roberto, in bocca al lupo, spero. Grazie. Ce la farai. E Daniele, domanda di rito per chiudere: quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Avere un po' il coraggio di dire no al sistema Italia, perché diciamo l'Italia è solo una piccola penisola di un mondo molto grande che ha tante opportunità da offrire a chiunque. Per coloro che pensano di venire in questo paese, nel Regno Unito o nella Scozia, il mio consiglio è quello praticamente di studiare per una qualifica professionale locale. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi prosegue la nostra inchiesta sulle nuove città dell'immigrazione professionale in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Ci proiettiamo nella Mecca dell'innovazione mondiale. Rotta dunque verso la California, Fabrizio Marcelli, console generale a San Francisco, ci fornisce alcuni dati. 14.000 persone, in gran parte concentrate qui nel nord della California, in particolare in questa regione nella Bay Area, che comprende San Francisco e tutta la zona della Baia e più a sud verso la Silicon Valley. Parlando in particolare dei giovani? Questi ultimi anni stiamo assistendo a un arrivo abbastanza sostenuto di giovani laureati, ragazzi che iniziano una startup e vengono qua per avere una proiezione globale, per avere dei finanziamenti da parte dei capitalisti di ventura locali. Qual è il profilo di questi giovani che stanno arrivando in Silicon Valley? Si tratta di laureati, spesso vengono qui per fare dei corsi di specializzazione post laurea oppure addirittura dei dottorati presso le università americane. Chiaramente li spinge qua il fatto che siamo nella Mecca per quanto riguarda le tecnologie più avanzate, quindi veramente ci sono delle opportunità sia di studio che di impresa in questi settori. Tendenzialmente dunque o studiano in università o lavorano in impresa o si fanno essi stessi imprenditori. Quest'ultimo è un fenomeno nuovo secondo lei? Risale agli ultimi anni, soprattutto questo degli studenti che vengono qua per specializzarsi spesso in ingegneria elettronica e poi nella, in ambito universitario conoscono degli stessi professori o degli altri studenti con i quali poi avviano un'impresa, una startup sulla base di un'idea. Quello della nuova emigrazione professionale è un fenomeno in crescita? È un fenomeno in crescita non solamente per quanto riguarda la collettività italiana, ma io parlando poi con i colleghi mi rendo conto che tutte le collettività europee di questo tipo si stanno ingrandendo. Si assiste anche a un fenomeno di associazionismo fra giovani imprenditori su base nazionale. Parliamo comunque di un tipo di immigrazione diversa rispetto a quella che si dirige verso gli altri stati americani. In cosa si differenzia soprattutto? Si tratta di persone con un livello di istruzione molto elevato, che hanno voglia di fare, di rischiare. Una volta arrivati qua vengono proprio contagiati da questo spirito imprenditoriale che aleggia qua dalle parti di San Francisco. E questo ecosistema è qualcosa che invece in Italia non trovano? Devo dire che è un parere unanime. Si rendono conto che qui non ci stanno dei meccanismi che in Italia bloccano lo sviluppo delle imprese, la crescita. Qui si è più agevolati sotto tutti i punti di vista, a livello burocratico, anche soprattutto a livello finanziario. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.consasanfrancisco.esteri.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Vi ricordiamo infine che all'interno del blog è attiva la piattaforma Matching e che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.